Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Buongiorno Deborah Rosciani, ti voglio io come amica. E non solo per darmi le notizie di borsa, anche perché mi hanno detto che sei un'ottima forchetta. Staremmo benissimo insieme. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Tu pensa che nonostante le origini pugliesi, Claudia Schiattone neanche conosceva questo brano famosissimo di Tony Sant'Agata, Il Maritiello. Che è un brano folk che ben si addice anche alla dichiarazione di questo ulteriore spasimante che però io devo dirglielo così da uomo a uomo. Che si mette in fila. Guardi, c'è una lunga coda qui di pretendenti. Quindi Lo so, però sai, se la cena è in palio, visto che ha riconosciuto il fatto che sia una buona forchetta, se mi mette sul piatto un buon pasto, una buona cena, magari posso considerare l'ascoltatore e quindi farlo scavalcare tutte le posizioni molto rapidamente. Allora, ad esempio, potrebbe mettere del vino sul tavolo oppure darlo in pegno, perché questa è la prima notizia da cui vogliamo partire. Che ci ha anche un pochino preoccupato, perché non abbiamo ben capito la dinamica di questo strumento. Allora, c'è uno stato di crisi molto importante che sta penalizzando moltissimo anche l'agricoltura, anche il settore vitivinicolo. E allora c'è chi chiede un prestito lasciando in pegno vini, formaggi e oli extravergine di alta qualità. Lo racconta Coldiretti Puglia dopo la pubblicazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole che ha autorizzato il pegno rotativo sui prodotti agricoli ed alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, recentemente introdotta dal decreto Cura Italia. Allora, Coldiretti dice: è una forma di finanziamento innovativa particolarmente adatta per alimenti che chiedono tempo per completare il ciclo produttivo, come ad esempio l'invecchiamento dei vini, la stagionatura dei formaggi o l'affinamento dei salumi. Ma io e Mauro ci siamo chiesti come funziona esattamente questo pegno rotativo, perché è più o meno come quando uno accende un mutuo, accende un mutuo e deve mettere a garanzia l'immobile, come è noto. Ma allora in questo consegna la forma piuttosto che la bottiglia. È solo una scrittura contabile. Se qualche ascoltatore... O devi fare un accantonamento proprio fisico, cioè attrezzare una stanza dell'azienda, una sala dell'azienda dove mettere tutto ciò che è teoricamente sotto pegno. E quindi non vendibile, immaginiamo noi. Però se volete dircelo, i numeri di telefono abituali potrebbero servire anche a questo, se qualcuno è esperto del pegno rotativo. Allora cominciamo dai messaggi per SMS o via WhatsApp. 349-238-6666. E poi invece c'è sempre il numero verde 800 24 00 24, che serve oggi, essendo giovedì, anche a partecipare al nostro domandone molto importante, perché vi daremo una primizia e chi ci segue sul Facebook o sullo YouTube già può vederlo. Vi daremo una primizia che tutti gli altri potranno avere soltanto sabato. E Gianmarco Ferronato, è inutile che guardi con concupiscenza. Non dare l'aiutino. Tu stai concupendo questa primizia, e però mi spiace, devi aspettare. Teniamo ancora un momento di suspense. Invece potete utilizzare i numeri verdi, il numero verde e l'altro numero per i messaggi su WhatsApp, anche per intervenire nel corso di Investire Informati. Naturalmente oggi è giovedì e non c'è solamente il domandone, ma c'è anche un confronto con un operatore dei mercati finanziari molto accreditato e molto autorevole, come al solito un ospite di valore mondiale. E ci mancherebbe altro. Io invece volevo tornare alle questioni alimentari, perché ho letto qualche giorno fa sul Sole 24 Ore che nel 2038 potrebbe non esserci cacao per tutti. Questa è una notizia che mi getta veramente nell'angoscia, perché tu sai che io sono una discreta consumatrice di cioccolato. E quindi potrebbe mancare il cioccolato. E l'abbiamo così, lo ha detto alla collega Micaela Cappellini, Virginie Raisson, che è una geopolitologa francese. Tra l'altro è stata anche per molti anni nel consiglio di amministrazione di Medici Senza Frontiere. E appunto ha pubblicato questo volume, 2038, Atlante sui futuri del mondo, edito da Slow Food, è stato presentato a Ferrara di recente. E il cacao non basterà per tutti, dice lei, perché nei paesi emergenti sta aumentando la domanda di cioccolato in modo esponenziale. E poverini, c'hanno pure loro il diritto di mangiarla, la cioccolata. Allora però attenzione, perché potremmo, chissà se possiamo mettere da parte anche il cioccolato, fare un pegno rotativo. Non vorrei ritrovarmi in avanzata vecchiaia, o ahimè, cioè nel 2038, senza neanche questo conforto del cioccolato. Comunque abbiamo toccato il tema delle materie prime, dei mercati emergenti, tutte tematiche che ci servono poi per confrontarci con il nostro ospite di Investire Informati. Però quando lo intervisteremo? Dopo il giornale radio del risparmio. Ah certo. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Allora, chissà se il mio nuovo fidanzato è fra questi quattro nuovi miliardari, le new entry dei miliardari in Italia, praticamente, secondo questa ricognizione fatta da UBS e PwC. Ma c'è anche qualche miliardaria, perché sarebbe carino saperne anche lo stato... Non è carino appunto che ci sia questa censura in termini di informazione, ma probabilmente sì, o è una questione di riservatezza. Ma ne farei una questione di genere più che altro. E poi io vorrei anche conoscere lo stato civile, anche a beneficio, così come informazioni di servizio, di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Quindi va bene, diteci chi sono i nuovi miliardari, ma diteci anche qual è il loro stato civile. Sono coniugati, sono in un'unione civile, che ne so, insomma, diamo i dettagli, professionali di queste indagine. Allora, nonostante la pandemia che sta mettendo davvero in seria difficoltà l'economia globale, alla fine di luglio i patrimoni cumulativi dei miliardari del pianeta toccavano i 10.200 miliardi di dollari, pari circa a 8.676 miliardi di euro. È stato segnato quindi un nuovo massimo dal 2017, il tutto suddiviso fra 2.189 paperoni censiti, 31 in più rispetto al 2017. Lo dice appunto questo studio annuale di PwC e UBS sui miliardari a livello mondiale. Ma in Italia quanti ne abbiamo? Le new entry tra i miliardari rispetto al 2019 sono 4, per un totale di 40, con patrimoni complessivi che valgono 165 miliardi di dollari a fine luglio. Poi, se volete anche i ricchi piangono, vi diciamo che le turbolenze di borsa, che sono appunto state innescate dalla crisi del Covid, comunque hanno causato qualche uscita anche da questo club dei miliardari, perché non tutti sono riusciti a difendere il loro patrimonio. Peraltro immagino che abbiano mantenuto a sufficienza per mantenere se stessi e anche qualche congiunto. Paperoni e paperone, le donne contano, un percorso di educazione finanziaria pensato per le donne. Raccontami un po' tutto quello che succederà lunedì prossimo. Allora, lunedì prossimo dalle 5, dalle 17 fino alle 18:15 c'è un evento molto interessante che è fatto dalla Banca d'Italia, organizzato da Banca d'Italia. È un percorso di educazione finanziaria appunto pensato per le donne. Se volete saperne di più, economiapertutti.it, ma cercate su Google appunto Economia per Tutti, è il portale di educazione finanziaria della Banca d'Italia. Lì ci sarà una discussione sulle tematiche dell'educazione finanziaria al femminile, e anche per capire come organizzare dei percorsi di educazione finanziaria, di alfabetizzazione finanziaria, dedicati proprio alle donne, che sappiamo restano sempre per alcune parti più deboli dal punto di vista proprio della preparazione. E mettete mano all'agenda anche per segnalare altri, per segnarvi altri appuntamenti. A partire dal 22 ottobre, ogni giovedì per 5 settimane, l'industria del risparmio gestito si dà appuntamento online per fare il punto sulle sfide del post-Covid e sul ruolo del risparmio come motore dell'evoluzione futura. Sono aperte le iscrizioni al ciclo di appuntamenti intitolato Air Evolution Revolution, il futuro ha un grande futuro, che Assogestioni organizza in collaborazione con Focus Risparmio, che è il magazine edito dall'associazione. Si tratta della seconda serie di conferenze, aspettando il Salone del Risparmio, che come sapete quest'anno non si è potuto tenere, ma in qualche maniera si è studiata questa modalità online per garantire continuità rispetto a questo appuntamento. Il mondo fondo del risparmio gestito della consulenza finanziaria. Dunque si danno appuntamento in questo modo nel percorso di avvicinamento alla 11ª edizione del Salone, che sarà a questo punto l'anno prossimo, speriamo fisicamente, ma vedremo un po', andiamoci con cautela anche con queste promesse, perché non lo sappiamo. In ogni caso, dal 22 ottobre online avete questi appuntamenti appunto digitali. Ti do un'ultima indicazione a proposito di digitale per quanto riguarda lo SPID o la SPID, diciamola un po' come vogliamo, perché il Ministero dell'Innovazione ha ufficializzato il via libera a una procedura semplificata di riconoscimento per chi chiede lo SPID, quindi in modalità audio-video, insomma, per ottenere l'identità digitale. Lo riferisce oggi il Sole 24 Ore a pagina 33. La modalità si affianca, naturalmente, non sostituisce né elimina alcune delle modalità già presenti, già disponibili quest'oggi. Quindi lo SPID si può richiedere. Partite sempre dal sito www.agid.it. Lo dico, Deborah, perché abbiamo visto che le nostre puntate dedicate a queste innovazioni digitali hanno avuto poi una eco molto importante di mail, di richieste anche di ulteriori chiarimenti. Non è detto che da a breve non si debba tornare sul tema. Allora, tra pochissimo partiremo con Investire Informati, prima però credo che ancora una volta c'è qualcuno che bussa ai nostri sportelli. Di. Dillo a due di denari. Cari Meazza e Rosciani, nella nostra realtà, non so nella vostra, una visita oculistica costa tra i 100 e i 150 euro quando andiamo bene. Se vuoi detrarre il 19% dell'eccedenza dei 129 euro, forse non detrai niente da quella spesa. Invece con 50 euro hai risparmiato un bel po' di soldi. Poi non sappiamo se era bravo, se era farlocco e quanto danno fa all'economia intera. Però intanto ognuno di loro ha risparmiato tra i 70, gli 80 e i 100 euro. Invece se scaricava pochi centesimi. E questa è la coda del notizione con cui siamo partiti ieri mattina, Mauro. Posso chiusare in 10 secondi? Vai, fai l'editoriale anche tu. No, ci sono due aspetti. Allora, primo, bisognerebbe supporre che uno abbia solo quella spesa lì, cioè non ha mai comprato neanche un'aspirina in farmacia, perché poi anche i farmaci da banco possono essere detraibili col 19% e quindi superare la franchigia che diceva l'ascoltatore. Però noi ieri ponevamo anche un'altra questione, Deborah, e cioè magari uno contemporaneamente sta pagando un'assicurazione privata, una forma di mutuo integrativo eccetera, che gli costa qualche centinaio di euro all'anno e che magari gli rimborserebbe, se non tutta, buona parte della spesa. Allora naturalmente dovrebbe essere una spesa regolarmente documentata. Sì, io ci metterei anche un terzo aspetto: non era neanche un operatore professionalmente parlando qualificato. Al netto che, chiudiamo su questo, trattandosi della salute, forse, ma dico forse, è meglio non affidarsi a qualcuno che non ha i titoli. Poi, per carità, ognuno della propria salute. Non un medico oculista, quindi voglio dire, parliamo anche di questo, cioè centinaia di persone, per risparmiare, comprensibilmente, lo posso anche capire, affidavano la loro vista ad una persona che non aveva i titoli, appunto per prendersi cura dei malanni di queste persone. E che il fisco non aveva in vista, peraltro. Ecco. E questo è anche fastidiosetto, poi, in un termine più generale per la collettività. Ma andiamo senza più por tempo in mezzo, andiamo a Investire Informati. Investire Informati. Caro Mauro, allora, se fino a qualche mese fa era abbastanza tracciata la traiettoria del ciclo economico dei mercati, sappiamo che da marzo è cambiato tutto. Insomma, abbiamo un ricordo abbastanza vivo di quello che è successo da marzo in avanti per i mercati. Sono saltate convinzioni, regole, paradigmi. Le grandi case di investimento hanno dovuto probabilmente stracciare analisi e report e rimettersi a rifare proiezioni su proiezioni. Però abbiamo una certezza, che è quella di PIMCO, il gigante mondiale del reddito fisso, ha presentato anche quest'anno, e noi qua ce lo abbiamo in anteprima, il cosiddetto Outlook secolare. È un documento molto dettagliato che ci racconta e ci aiuta a capire quali fattori di lungo periodo potrebbero comportare cambiamenti dirompenti per l'economia e per i mercati finanziari globali nei prossimi 3-5 anni, e soprattutto cercheremo di capire anche come affrontare questi cambiamenti. Ecco qua Mauro che mette in evidenza, a beneficio dei nostri follower sui social network, il rapporto, ma mette anche in evidenza L'altra, il secondo primizia, grande documento del momento. Esatto, abbiamo due documenti in anteprima. Il primo è questo auto secolare, cosa serissima, appunto, l'analisi di PIMCO sulle tendenze in atto sui mercati finanziari, e sappiamo quanto c'è bisogno di decifrarli. Però anche noi nel nostro piccolo, cara Debora, da sabato in edicola con Investire è facile, parentesi, anche nei momenti difficili, chiusa parentesi, lo sto mostrando a beneficio di coloro che ci seguono sul Facebook, sullo YouTube, insomma sui vari canali in cui siamo ripresi anche in video. Mi perdonerà a questo punto Alessandro Gandolfi, che è Managing Director e Head of Italy per PIMCO. Gli diamo il benvenuto, il più caloroso benvenuto a Due di Denari. Scusi, però le faremo avere una copia del libro per farci perdonare, dottor Gandolfi. Buongiorno. Ma sono molto curioso, buongiorno a voi, grazie innanzitutto per avermi invitato alla vostra trasmissione. Sono molto curioso di leggere il vostro libro, perché investire è facile, soprattutto nei momenti difficili, è esattamente il diciamo la base stessa della gestione attiva. Certo. Perché nella gestione attiva proprio è il problema di investire quando le cose costano poco, non quando costano tanto, e quando costano poco è perché il momento è difficile. Andiamo per ordine però, perché io ho lanciato la sua intervista introducendo l'Outlook secolare, che è questo documento che rilasciate ogni anno. Peraltro, fra le varie curiosità di questa 39esima edizione, c'è anche quella che questa volta il documento è stato stilato da tutti i vostri massimi esperti, appunto, che si sono potuti confrontare solamente digitalmente, quindi non avete potuto fare il vostro consueto annuale incontro a Newport Beach, Gandolfi, se non sbaglio. Esatto, quindi mi sono evitato o ho perso l'opportunità di fare un viaggio in California anche quest'anno. Devo dire che ormai è un po' di tempo, normalmente noi abbiamo i nostri forum tre volte all'anno e normalmente ci partecipiamo di persona, però quest'anno non è stato possibile. Quali sono i punti di forza della vostra ricerca quest'anno, in questa edizione 2020, Gandolfi? Ma innanzitutto direi questa è la 39esima edizione del nostro Secular Forum. Il Secular Forum è un elemento centrale del nostro processo di investimento, cioè non ha l'obiettivo in qualche maniera di raccontare quello che pensiamo ai nostri clienti, ma proprio l'obiettivo di metterci noi a confrontarci con i trend che non spesso non sono neanche legati a eventi del momento, ma sono legati più a situazioni anche culturali e politiche. E quindi anche quest'anno veramente è stata un'analisi che ha guardato ai cambiamenti. In realtà i cambiamenti che noi abbiamo analizzato nel nostro Secular Forum erano cambiamenti già in atto prima della pandemia. La pandemia ha fatto da catalizzatore dell'accelerazione di questi cambiamenti. In particolare ne abbiamo individuati quattro. Innanzitutto l'ascesa della Cina. Esatto, l'ambizione della Cina è diventare impero dominante o comunque sicuramente paragonabile agli Stati Uniti. Il populismo che già avevamo individuato, che ancora oggi ritorna ad essere al centro dell'attenzione, semplicemente perché il populismo si accompagna con l'ineguaglianza, e uno delle possibili esiti di questa situazione è proprio che aumenterà il livello di ineguaglianza nel mondo. Un terzo elemento che è stato ulteriormente accelerato è legato al clima, ai cambiamenti climatici, che non è tanto solo legato al fatto che possa succedere qualche evento drammatico legato al clima, ma perché c'è stata una consapevolezza molto più diffusa e anche risorse che sono state impiegate, pensiamo soltanto all'Europa, in questo senso, e questo non potrà non avere impatti importanti sullo sviluppo dell'economia. E in ultimo, ma non ultimo, la tecnologia. E insomma direi che il fatto che abbiamo fatto il nostro forum virtuale è già un piccolo segno di quello che sarà la tecnologia e come cambierà rapidamente il nostro agire nei prossimi mesi. Ecco, dottor Gandolfi, sono elementi questi quattro che sicuramente tutti possono portare a una evoluzione in senso positivo, però a primo sguardo invece sembrano più contenere delle minacce, perché della Cina sappiamo, insomma, non è proprio un mercato trasparente, non è un paese trasparente, completamente trasparente. Del populismo, ha già detto lei, rischia di aumentare le disuguaglianze, le ineguaglianze nel mondo. il clima, sappiamo, vediamo spesso anche i disastri, i cambiamenti che incombono su di noi, e la tecnologia, che pure sembrerebbe essere positiva, in realtà poi abbiamo visto anche durante il lockdown, finisce per dividere nettamente il mondo in due: chi se la può permettere, chi ce l'ha, e chi invece non se la può permettere. Non so se questo porta poi tutto il vostro outlook, il vostro scenario verso un'evoluzione negativa o positiva, e questa è la mia domanda. Guardi, in realtà il nostro outlook rappresenta proprio un vero bivio, nel senso che dipenderà come questi elementi si concretizzeranno, però sicuramente la Cina avrà un peso importante, soprattutto per quanto riguarda i rapporti col mondo con l'Occidente. Bisognerà capire se si divideranno i due sistemi, oppure se troveranno dei modi per dialogare. Sicuramente la Cina non potrà più appoggiarsi all'Occidente per avere una facile domanda dei propri beni e servizi, e quindi dovrà crearsi un sistema interno. Ma la sua domanda è: questo è bene o è male? Dipenderà da come evolverà, e in particolare qui entra un elemento secondo noi chiave, che è la politica fiscale. La politica fiscale in questa pandemia è intervenuta in maniera molto molto importante, quasi inaspettata, in particolare ad esempio in Europa nessuno si aspettava un'evoluzione come quella che abbiamo assistito nei momenti più drammatici della pandemia. Ma quanto questa politica fiscale espansiva resterà in piedi anche laddove l'economia inizierà a rinormalizzarsi e quindi ritornare a crescere, sarà uno degli elementi chiave, perché se resterà attiva, probabilmente ci sarà più inflazione ma anche più crescita. Se invece tornerà a una situazione, diciamo, di ritracciamento e riduzione, beh, questo potrebbe creare chiaramente delle situazioni molto più difficili, perché la sola politica monetaria, quindi quella delle banche centrali, ormai ha dimostrato di non essere in grado di creare crescita, ma solo di sostenere i prezzi delle attività. Flico floc, verrebbe da dire. No, volevo dire solamente che Cina, populismo e tecnologia erano nel rapporto e nell'outlook anche dell'anno scorso, insieme ad altri due temi: le dinamiche demografiche e la vulnerabilità dei mercati finanziari. Prendo appuntamento dopo la borsa con Alessandro Gandolfi per approfondire questo aspetto, che non è nel rapporto di quest'anno, ma mi sembra che invece in questo 2020 i mercati finanziari, causa Covid, la loro vulnerabilità l'abbiano manifestata, ma a modo tutto loro, perché sì, sono stati vulnerabili praticamente due giorni, dopodiché hanno ripreso a correre. Quindi anche questo è un tema che dobbiamo far capire bene ai nostri ascoltatori e risparmiatori. Certo, ma tutto questo dopo le borse. Adesso vediamo se Deborah Rosciani parla ancora di borsa anche oggi o se cambia argomento ogni tanto. Vediamo. Due di denari. Investire informati. Investire informati oggi con Alessandro Gandolfi, Managing Director e Head of Italy di PIMCO, il colosso mondiale del reddito fisso, che proprio ieri ha presentato l'outlook secolare, cioè quello che loro definiscono l'elemento centrale, la loro analisi portante per definire poi i processi di investimento di questa grande società. Ma prima di continuare a conversare con Alessandro Gandolfi, volevamo fare un commento rispetto ad un commento arrivato da un ascoltatore che si è impermalito sulla questione ottico-oculista che abbiamo affrontato all'inizio. Allora, io vorrei anche che voi vi impegnaste un attimo a capire bene quello che diciamo, perché sennò ogni giorno è un chiarimento dietro l'altro. Mauro, allora cos'è che abbiamo detto prima? L'ascoltatore Pietro, che comunque ringraziamo e per salutiamo l'ascolto, ci dice: come vi permettete di dire che gli ottici non sono qualificati per eseguire esami della vista? Mai detto, in primo luogo, anche perché io sono la prima che si avvale prima dell'ottico e poi dell'oculista, quindi guarda, denuncio anche il mio operato, prima cosa. Allora, quello che abbiamo segnalato, e l'abbiamo segnalato nella puntata di ieri, era la vicenda di un ottico, quindi titolato per fare esami della vista, che però svolgeva mansioni da oculista, che è un altro lavoro. Quindi come oculista rilasciava ricette, ad esempio, immaginiamo, dava delle cure, dei farmaci e cose di questo tipo. Questa è un'attività che mi correggerà Pietro, non è consentita all'ottico, quindi si tratta di avere delle professioni regolate, ordinate, come si dice, cioè iscritte in ordini, che hanno delle mansioni precise e quelle relative alla salute sono particolarmente rigorose. Questo volevamo dire, non limitare certo le competenze degli ottici, ma precisare che ci sono competenze per gli ottici e competenze per gli oculisti. Gandolfi, torniamo ai mercati che, pur essendo turbolenti, sono magari più accondiscendenti, almeno oggi così pare, lo diceva Deborah prima. Esatto, il tema della vulnerabilità dei mercati finanziari, come mai quest'anno non l'avete considerata nell'outlook secolare? No, non è vero che non l'abbiamo considerata. Nei quattro temi, diciamo, disruptors, quelli che... Ma in realtà sono i temi che possono creare vulnerabilità sui mercati, quindi se uno va a vedere esattamente ciascuno di questi ha degli impatti sui mercati. Però rispetto a quello che lei mi chiedeva all'inizio, cioè come mai questi mercati sono stati così negativi per i primi 3-4 settimane e poi di colpo hanno invertito la rotta e hanno iniziato a crescere a livelli che obiettivamente immagino nessuno potesse aspettarsi. E qui vale la solita regola che vale un pochino dall'attivismo delle banche centrali fin dalla crisi del 2008. Il bad news is a good news, quindi una notizia cattiva alla fine in realtà diventa una notizia buona per i mercati, perché le banche centrali intervengono in maniera pesante e in questo caso la Fed il 23 di marzo ha fatto una specie di whatever it takes con gli interventi che fece. Lo ricordo, ad esempio, iniziò a comprare anche titoli di credito che fino ad allora la Fed non aveva acquistato, non aveva politiche di acquisto, al contrario ad esempio della ECB e della Banca del Giappone, e quindi questa cosa ha dato molta fiducia e da lì si è ripartiti. Però obiettivamente l'economia rimane un'economia che ha delle debolezze strutturali molto forti, dalla disoccupazione che chissà quando ritornerà ad essere piena, l'incertezza sul futuro, le famose incertezze radicali, e poi non dimentichiamoci la cosiddetta zombification, cioè questi aiuti delle banche centrali vanno, e in generale anche della politica fiscale, vanno a vantaggio, a sostenere anche delle attività economiche che forse nel futuro non avranno più lo stesso senso di esistere o di esistere come esistevano prima, quindi questo chiaramente non aiuta la produttività e la crescita futura. Quindi il vero punto è che bad news domani potrebbero non essere più good news, ma potrebbero diventare bad news, perché le stesse banche centrali, con tutto questo intervento che ha fatto, potrebbero trovarsi a dover fare delle scelte di non essere più così accomodanti, magari sostenendo dei settori che ormai non hanno più senso dal punto di vista economico o comunque non l'hanno come in precedenza. Quindi il vero punto di domanda che ci siamo posti nel nostro secolo Outlook è se si entrerà in un'epoca in cui non più bad news will be good news, ma bisognerà stare attenti a selezionare bene chi sono i veri vincitori e i veri perdenti. Cioè, se comprendo bene questo passaggio di segno, per cui la cattiva notizia comunque può poi trasformarsi in una buona notizia, è che alcuni cambiamenti diventano irreversibili di fatto. Non so, penso al settore auto che oramai si ritrova abbastanza stretto all'angolo o assume una linea molto più amica dell'ambiente in generale, oppure effettivamente rischia di avere dei gravi problemi proprio di convivenza con le norme dei vari stati. Assolutamente sì, nel senso che fino a ieri, comunque anche per un motivo di politica sociale, e fino ad oggi direi, anzi non sono ieri, questi settori, ancorché magari, come l'esempio faceva lei, potevano essere out of time, fuori dal tempo, perché ormai il tempo andava verso una direzione diversa, però venivano sostenuti. Nel tempo dovranno in qualche maniera trovare un modo per accelerare questa conversione verso sistemi di business più sostenibili e quindi anche più accettabili da parte dei consumatori. E questo non tutti lo sapranno fare nello stesso modo, non tutti lo potranno fare, e obiettivamente questo sarà un elemento di grande incertezza per gli investitori e ancora una volta un imperativo per noi investitori professionali di selezionare molto bene i vincitori e cercare di evitare i cosiddetti futuri perdenti. Allora Gandolfi, lei ci ha indicato i quattro grandi temi che tenete sotto osservazione, sulla base dei quali poi costruire costruite le vostre strategie di investimento. Quindi mi ha parlato della Cina, del populismo, del cambiamento climatico e della tecnologia. Andiamo un po' più nel concreto alle scelte operative che poi fate. Come traducete queste analisi in operazioni e scelte di investimento operative, per l'appunto? Sto ripetendo le stesse parole, ma non me ne vengono in mente molte, molte altre. Stavo guardando per esempio nel rapporto, nell'outlook secolare, appunto, che individuate nelle opportunità nel settore del credito, e questo proprio nelle ore in cui la Banca Centrale Europea ha fatto capire di essere pronta ad una nuova stretta sui crediti deteriorati, perché come sappiamo bene, durante la pandemia, a fronte di moratorie, prestiti garantiti, molte banche hanno dovuto sostenere l'economia reale ma non hanno potuto fare accantonamenti adeguati, appunto, per fronteggiare eventuali problemi futuri. E quindi la Banca Centrale Europea metterà maggior pressione in questo senso. Quindi perché il credito, il mondo finanziario, è un'opportunità di investimento se in realtà è destinato, anche se nel medio termine, non nel lunghissimo termine, a vivere anche questa fase problematica? Guardi, il suo esempio cade a pennello, come si dice, perché è esattamente uno dei settori che, se guardiamo rispetto agli altri, è rimasto più indietro in termini di recupero, proprio il settore delle banche, proprio per le preoccupazioni che lei accennava sul fatto di trovarsi alla fine di questa pandemia, o comunque nella fase di ripresa, con dei crediti incagliati molto più alti rispetto a quelle che erano le attese precedenti. E questo obiettivamente deve preoccupare l'investitore. Però è altrettanto vero che il settore delle banche è il settore che questa volta non solo non ha avuto colpe della crisi che si è vissuta, ma addirittura si è fatto trovare più sano, perché hanno ricapitalizzato molte banche, hanno evitato di fare attività di trading o di investment, di capital market, come si faceva una volta, quella famosa finanza creativa. Quindi obiettivamente, se noi guardiamo al settore, era un settore che non aveva fatto leva, non aveva aumentato il livello di debito, al contrario di altri settori che ci sono nel settore, nel mondo del credito, del corporate. Eppure è quello che sta pagando maggiormente questo scotto, proprio perché si stima e si pensa che ci saranno grandi numeri di crediti incagliati. Però dall'altra parte le banche sono anche un elemento della soluzione di questo problema, e le autorità centrali lo sanno molto bene. Non potranno prescindere dal fatto che le banche più sane e più capaci, quelle che sono più attrezzate per essere operatori, diciamo, solidi e efficienti, quindi l'elemento dell'efficienza diventa fondamentale, saranno quelle che poi riusciranno a dare credito all'economia e quindi far crescere il sistema. Allora, in tutto questo, che cosa deve fare un investitore? Deve selezionare, deve capire quali sono quelle banche che in questo momento, proprio perché in generale viste negativamente, in realtà hanno del potenziale di restituire il capitale e soprattutto di dare dei rendimenti interessanti, proprio perché appunto non c'è la corsa all'acquisto di carta bancaria, e dall'altra parte invece evitare o comunque ridurre quelle banche, appunto, quegli operatori finanziari che invece sono più a rischio di essere chiamati a dover rispondere di un eccesso di credito. Quindi questo sarà l'elemento di prova del sistema, però obiettivamente è quello che un investitore come PIMCO deve fare. Capire i bilanci, capire i business model, capire e conoscere i management, e poi selezionare quei emittenti. E ricordo, PIMCO compra quasi esclusivamente titoli di debito, e quindi quegli emittenti che in qualche maniera sanno essere non troppo aggressivi nelle proprie politiche, perché sanno che poi devono arrivare alla prova del 9 e restituire e rispettare gli impegni che hanno preso. Fermo lì, Gandolfi, perché siamo già in ritardissimo, ma... Il giovedì è sempre il momento del domandone. Allora, oggi facile facile ma importantissimo. Accettiamo risposte solo a 800 24 00 24. Vogliamo sapere come si chiama, qual è il titolo del nostro nuovo libro, il libro di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, da sabato in edicola con Il Sole 24 Ore. Qual è il titolo? Traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling. Di denari. Telegraficamente ripeto il domandone, lo riformulo accettiamo risposte solo al telefono del numero verde 800 24 00 24. La domanda è: qual è il titolo del nuovo libro di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore da sabato prossimo 10 ottobre? Il titolo è... Chiamate, chiamate, chiamate. Guarda, devo dire che già qualcuno si sta mettendo in fila. Molto bene, Alessandro Gandolfi. Allora, abbiamo fatto questa analisi del panorama finanziario come tema di investimento, le problematiche che sarà destinato a vivere prossimamente, come le potrà risolvere e quindi come potrà essere anche una classe di investimento interessante per piccoli e grandi investitori. Però gli ascoltatori, come sempre, si lamentano del fatto che non diamo mai indicazioni ancora più concrete. Dunque, noi siamo della linea di fare pianificazione finanziaria intelligente, fare un sano ragionamento in famiglia su quelli che sono i bisogni di tutti e poi cercare di trovare le soluzioni di investimento adatte per raggiungere questi obiettivi. Spostiamoci allora di un altro gradino. Se proprio volete qualcosa di più succulento, Alessandro Gandolfi ci dirà, sulla base dell'outlook secolare, quali saranno i settori più interessanti prossimamente. Chiaramente pandemia permettendo, perché c'è da considerare anche questo tema, Gandolfi, e non è che in questo momento lo possiamo mettere da parte. No, assolutamente. I settori chiaramente che sono stati più premiati dagli investitori sono quelli che conosciamo già, quindi chiaramente tutto il tema della tecnologia, l'healthcare, quindi la salute, e sono rimasti indietro ad esempio tutto il settore delle aviolinee, del turismo. Però qui ritorno a quello che dicevo un po' all'inizio: non esiste negli investimenti il buono e il cattivo, esiste il cheap e l'expensive, cioè quello che è caro o quello che non è caro, quindi conveniente. Ebbene, anche nel settore in alcuni settori, come ad esempio quello del turismo piuttosto quello delle aviolinee, ci sono degli operatori che per dimensioni, per capacità, anche per lungimiranza del management, si stanno preparando a risfruttare la fase di partenza, anche perché noi, a meno che pensiamo che il consumatore non viaggerà mai più e non andrà più in vacanza o non andrà più negli hotel, probabilmente questo succederà e quindi la gente ritornerà a fare vacanze e a viaggiare, e allora bisogna veramente saper selezionare bene anche in questi settori. Poi è chiaro che il settore della tecnologia, delle scare, come dicevo all'inizio, sono comunque quelli che riceveranno maggiori sostegni anche dalla mano pubblica, e quindi obiettivamente avranno un boost, cioè una spinta iniziale che sarà molto, molto forte. Ma anche lì bisogna stare attenti, perché non tutti gli operatori di questi settori saranno vincenti e si vedranno premiati nel loro business model. Quindi veramente la selezione anche tra settori, così come tra regioni e tra paesi, è molto importante. E concludo: i mercati emergenti obiettivamente non saranno più un unico segmento da guardare in maniera unitaria, olistica, ma saranno veramente da considerare singolarmente. I mercati emergenti più vicini, ad esempio alla Cina, probabilmente ne avranno un beneficio, perché la Cina dovrà crearsi un proprio sistema di relazioni economiche, non potendo più contare solo sul sistema globale o sul sistema, diciamo, occidentale. Se capisco bene, Gandolfi, bisogna essere molto molto più selettivi forse di un tempo, cioè settori sì, va bene, i settori d'accordo, però attenzione, bisogna guardarci dentro e individuare, non che non fosse necessario prima probabilmente, però in questa fase di cambiamenti molto veloci, molto radicali, non è detto che l'appartenenza a un settore sia garanzia di successo. Assolutamente, quello che chiamiamo incertezze radicali. Credo che nessuno oggi possa descrivere come sarà il comportamento dei consumatori soltanto, piuttosto che i modelli di business più vincenti da qui all'anno prossimo, figuriamoci a 3-5 anni. Allora, la capacità di avere, come noi diciamo, un guardrail, cioè dei punti di riferimento chiave che ci fornisce il Secular Forum, insieme a un approccio più tattico, più opportunistico per certi aspetti, che invece ci viene dal nostro, diciamo, presenza sul mercato, dai nostri 70 analisti che parlano, dialogano quotidianamente con tutti i CFO, i CEO di tutte le più grandi aziende, è l'elemento vincente che noi speriamo ci permetterà proprio di individuare, perché questo sarà uno degli elementi imperativi a nostro giudizio, cioè la selezione e la capacità di essere umili ma anche determinati nel trovare le opportunità ed evitare invece le situazioni di potenziale crisi. Dovremmo averlo. Se... chi... eccolo qua. Benissimo. Allora, abbiamo posto questa domanda che è: come si chiama? Qual è il titolo del nuovo libro di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, che trovate da sabato in edicola con Il Sole 24 Ore. Il più veloce a digitare dovrebbe essere stato proprio Giorgio da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Qual è il titolo del nostro nuovo libro, Giorgio? Investire facile anche nei momenti difficili. Bravissimo. Per tutti gli altri che lo sapevano ma hanno digitato tardivamente il numero, appuntamento sabato prossimo in edicola con Il Sole 24 Ore. Investire è facile anche nei momenti difficili. Investire Informati torna invece giovedì prossimo. Noi ringraziamo moltissimo, tornerà prossimamente in un'altra puntata Alessandro Gandolfi, Managing Director and Head of Italy di PIMCO. Un saluto, un ben trovato anche oggi. Salve, a presto. Grazie Gandolfi, grazie, buona giornata. Grazie a tutti gli ascoltatori, a presto. Sono un po' ubriaca anche senza essere andata a cena con l'ascoltatore. Pensa come sono messa. Abbiamo cominciato col vino e finiamo ubriachi, non c'è niente da fare. Buona giornata. Per le aziende professionisti, il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.